oblio 006. Lo pompo in giro, man. Questo è hip hop vero che sento dentro di me da sempre. Parlo di quello che vivo, lo scrivo e poi lo porto in giro. Pioltello saranno in connessione, la nuova era Sicko Man sul beat per la nuova confusione. Verso dopo verso, maestro di cerimonia, OBLI, mi presento, zero parsimonia, adesso entro, cazzo non rallento, non sono un San Carlino de Fenestro, il tuo destro, vivo tutti i giorni come fosse sempre il primo, io mi addestro, popo questa merda, questo mezzo tra più umane di persone, questo sound, disco 17esimo, ma vivo come fosse il primo round, nella city, liti, pane quotidiano, nella mia famiglia mille sacrifici, vesto baggy lisi nella mia poltrona mobile, non sono giorni easy perché vivo senza regole. Completo da sto caos, vendo dischi, doppi giochisti, insultano gli artisti, ma pompo questa merda nelle strade cittadine provinciali coi miei rischi, e me ne sbatto quando passi tanto fischi. Mezzo in giro con le fighe sempre in tiro, pettinato la sportivo ma non c'entra più il vestito. Non conosci il mio passato, tu non sai quando ho iniziato. Sono stato sempre odiato dalle donne perché parlo di esperienze che ho vissuto sulla pelle, bad intention. Fuori dalle scuole, dalla metro, street promotion. Blow notes dei parcheggi, la luce dei lampioni della notte sui miei tetti. Sono pazzo ma non senti quando passo sotto casa, quando incrocio questa strada per vederti. Ancora in giro per la city col mio mezzo fra le antenne, consumo penne, parlando di una minorenne che poi sogno tra le stelle, ma non è cosa per me, non lo capisco. Per me c'è solo il rap, soltanto un treno, solo un disco. A casa solo con una bottiglia mi console, penso che se poi mi pompo in giro io ti disco. Alla buona, chissà per chi mi hai preso, vengo dalla nuova scuola, non mi sono mai arreso. Giro per la city, capo a piedi, compagnie e quartieri, vendo la mia roba sotto banco, come nei mercati arabi, cinesi, nei bazar di contrabbando. Non mi stanco, adesso è meglio che rispetti, nei parchetti, nei banchetti di concerti, nei microfoni aperti. Non sono forse un leader, neanche un hater, ma supporter da reporter, storie tese, bomber sopra i muri, pesce di piccolo taglio milanese. A manetta l'anima, la sagoma di una cultura in cui diffondo l'arte con la bocca, con il cuore. Le parole sono carte da giocare ed ore ed ore. Con i miei soci dentro club, nelle piazze, dentro bar, in prima linea, spalla destra di una saga che continua e manifesta sulla fiesta. Pompo festa, io lo pompo. Pompo, io lo pompo. Pompo, io lo pompo. Pompo giro questo.